Italia in controluce. Benvenuti da Alessio Maurizi, Italia in controluce, la cronaca anche quando non è nelle prime pagine dei giornali. Vi riproponiamo alcuni dei servizi più interessanti andati in onda in questa stagione. Parliamo di televisione. In passato i grandi salti la TV li ha compiuti con il passaggio dal bianco e nero al colore, poi le TV locali e più recentemente l'esplosione delle TV satellitari. Ma il fenomeno nuovo, da un po' di tempo a questa parte almeno, è la micro web TV. Ce ne parla Maria Luisa Pezzali. Ho cominciato a 14 anni, quando è finito l'obbligo scolastico, in poche parole. Poi, dai 14 anni, ho cominciato a fare il servo pastore, fino a 39 anni. Togliendo 15 mesi di militare, ho fatto 24 anni di servo pastore. E poi ho fatto per conto mio. Quello che avete appena ascoltato è Emilio Concas. A Gergei, un paesino a 60 km da Cagliari, fa il pastore. Su sardiniafarm.com lo si può vedere all'opera mentre munge, porta al pascolo le pecore e le tosa. Sardinia Farm è una delle quasi 300 micro web TV italiane. Emittenti online fatte da parenti, amici, vicini di casa raccontano il condominio, il quartiere, il paese e la città all'insegna dell'iperlocalismo e della videopartecipazione. Un vero e proprio trionfo della filosofia glocal. Telecamera digitale, le immagini sono girate sotto casa o in piccoli studi televisivi casalinghi da videomaker non professionisti, ma grazie alla rete possono fare il giro del mondo. È un panorama molto frastagliato, ci dice Giampaolo Colletti, autore di TV Fai da Web, fondatore di Altra TV, osservatorio permanente sul fenomeno. Si racconta ciò che accade sotto casa, nel quartiere, addirittura nel condominio, nel caso di Teletorre 19 di Bologna, la prima TV di condominio in Italia. Allora, in data 10 maggio, il condominio aveva inviato una raccomandata con ricevuta di ritorno direttamente alla società ERA. E poi spesso sono anche canali di denuncia, raccontano ciò che non va nel territorio e cercano di portare all'attenzione i problemi all'amministrazione comunale e al sindaco. Spesso, come ad esempio Telecitofono, portano addirittura i videobox dei cittadini all'attenzione del sindaco di persona, quindi creano un contatto diretto con l'amministrazione comunale. Le micro web TV hanno un rapporto controverso con la televisione generalista, cercano di allontanarsene, talvolta riprendono i linguaggi, le interviste doppie ad esempio, però la forza è proprio l'aderenza a quello che accade sotto casa, il videobox cittadino. Ecco, in questo le televisioni generaliste non riusciranno a coprire questo vuoto colmato dalle micro web TV italiane. Sono anche posizionate sui social network, quindi hanno un dialogo costante con la rete, soprattutto con gli italiani all'estero. La metà degli accessi di Messina Web TV arriva oltreoceano, dalla comunità di messinesi che sono a New York, che si collegano al mattino e capiscono cosa è accaduto il giorno prima a Messina. Inauguriamo con questa segnalazione la rubrica Alza la Voce, che vuole essere un modo per tutti i cittadini e tutti gli utenti di Messina Web di segnalare i problemi e le difficoltà che hanno in questa città e poter rendere pubblici dei problemi che in genere non hanno voce. La forza è questa ibridazione tra rete e TV, con la forza della partecipazione, della interazione anche sincrona. In un piccolo borgo vicino Cagliari, una via con una predominanza di persone che hanno superato i 100 anni di vita, si raccontano anche come memoria storica del territorio. Questa è la forza di viadeicentenari.it, che lo scorso anno ha vinto il Teletopo, il premio per la miglior micro web TV italiana. Quando mi sono sposata non mi volevano neanche dare a mio marito, perché io non ero capace di fare le faccende di casa, perché ero io molto piccolo e lui. Invece noi ci siamo sposati, abbiamo fatto 50 anni di matrimonio. Le televisioni garage, come le chiama qualcuno, non generano nessun profitto, sono il prodotto di una passione. Quella del racconto, della condivisione, ma anche della denuncia, dell'impegno civico e del cosiddetto citizen journalism, il giornalismo partecipativo in stile Current, la TV di Al Gore. Queste micro web TV nascono per cambiare lo stato delle cose. Penso a Disco Volante, una micro web TV creata da portatori di handicap. Hanno documentato a Senigallia le barriere architettoniche e da quando è nata questa micro web TV alcune barriere architettoniche sono state superate. Il saliscendi alle poste cittadine è stato sistemato. Altro esempio, ponte su Misa. Caos. Vieni. Sì. Qui da solo non ci riusciresti, Franco, qui.